si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Eccoci qua quando sono le 8:36 minuti. Di nuovo in diretta, una nuova puntata di Si può fare. Stiamo insieme fino alle 10. Vi aspettiamo all'800 24 0024. Carlo, Milano Monterosa. Piove, oggi piovigina, non ci siamo. E io continuo così a pensare a cosa starà pensando Bob Dylan. Non ci penso ogni tanto? Cioè, lui ha vinto molto il Nobel, spesso. C'è l'Accademia di Svezia che lo cerca in tutti i modi e lui non risponde al telefono. Io mi chiedo, ma cosa starà pensando? Che cosa vuole rispondere? Ma secondo me non sta neanche pensando al Nobel, dico sul sé. Credo che il cervello di Bob Dylan sarebbe un caso di studio interessante per gli psichiatri, perché è un personaggio incredibile, pieno di tante contraddizioni. Nella sua vita ha fatto di tutto: droga, alcol, prostituzione, veramente di tutto. Chissà adesso, giustamente. Sta ripensando a tutta la sua vita, dice. Hai fatto un elenchino, no, che poteva sembrare una festa bellissima. E allora, 800 24 0024, cerchiamo anche oggi, di domenica, un personaggio della settimana. Qualcuno che abbia una notizia che lo riguarda negli ultimi 7 giorni. Iniziamo così con un bel indizio. Ha alzato un polverone, va. Cominciate a pensare, ascoltatori. Anche oggi chi indovina per primo si porta a casa i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale di Milano. Volevi dire qualcosa, Carlo? No, mi sembrava un ottimo indizio. Mi sembrava un ottimo indizio, perché per chi conosce i nostri indizi di solito siamo molto più larghi. E invece un ottimo indizio. Sei buono oggi. Sono buono. Allora, Tra poco parleremo. C'è stato già un reportage questa mattina che si è occupato del tema. Come si chiamano? No, i Riders. Non vogliono essere chiamati Riders. No, non vogliono essere chiamati Riders, ma Fattorini. Fattorini Foodora, che sono arrabbiati. Sentiremo perché. Molto. E mi sembra comunque una storia interessante, perché in questo momento in tutte le città il tema delle consegne a domicilio e delle cene a domicilio è importante. Si può fare, perché tutti noi abbiamo piacere ad utilizzare il servizio, però poi ci chiediamo: ma chi c'è dietro queste persone che ci portano le cose a casa, eccetera? Quanto guadagnano? Troppo poco? Licenziati via WhatsApp? È possibile? Non è possibile. E soprattutto giustifica il fatto che è più o meno un anno che, appunto, per fare la trasmissione di oggi mi sto allenando e spessissimo mi faccio portare a casa la cena, giusto? È così? E poi non è per abbassare il senso di colpa. Non hai più neanche il motorino, quindi adesso non puoi più neanche andare a cena fuori col motorino e quindi fartelo portare a casa. Iniziamo, vai! Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. E a proposito di lavoro, questa settimana si è aperta con i dati sull'occupazione che non vanno bene. In realtà c'è stato un aumento dei licenziamenti. Si è riaperta la polemica sul Jobs Act, non ci sono più gli incentivi economici, si sono ridotti di molto gli incentivi economici per le aziende ad assumere nel primo anno. L'anno scorso erano oltre 20.000 euro, si sono ridotti di molto, e allora la polemica sui numeri e sul reale effetto di questa legge che ha fatto molto discutere. Jobs Act, poi ne parleremo anche con la Crusca, perché è l'ennesimo inglesismo, la legge sul lavoro. Sentiamo l'interpretazione che ne dà uno che su questi numeri è abbastanza addentro, il presidente dell'INPS Tito Boeri, che poi è quello che paga anche le nostre pensioni, ma anche tutti i sussidi di disoccupazione, quindi insomma i numeri dovrebbe conoscerli. Dice: aspettiamo un momento a giudicare. Se prendiamo i licenziamenti nel loro complesso è vero che c'è stato un incremento, se non erro attorno al 5% tra il 2015 e il 2016, però non capisco perché lo si attribuisce al Jobs Act, perché anche nel 2015 c'era già il Jobs Act. Suggerirei una certa cautela nel valutare questi dati. Nei prossimi giorni, ripeto, renderemo pubblico uno studio più approfondito che abbiamo fatto e su questo avremo modo di discutere con molta più accuratezza. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia. Beh, il ritornello gliel'abbiamo fatto fare perché ci piace sempre molto, Frankie. Molto, però, sì. Questa volta pedaliamo, ma non siamo molto felici. Non pedaliamo col sole, pedaliamo sotto la pioggia. Non pedaliamo col sorriso. E allora, l'abbiamo detto, parliamo di loro, dei ragazzi che in bici, quasi sempre in bici, portano il cibo a casa e sono sul piede di guerra, i dipendenti di dipendenti, i collaboratori di Foodora, ce ne sono diverse di queste aziende, ma noi parliamo di loro perché loro sono sul piede di guerra, appunto. È con noi Giuseppe Cannizzo. Ciao Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Lui è uno dei portavoce del movimento che ha scelto di chiamarsi Deliverance Project. Ebbene sì. Ma e come mai questa parola inglese? Questo dobbiamo chiedervelo subito, visto che voi giustamente dite non chiamateci Riders, che sennò sembra tutto un gioco, chiamateci Fattorini, però poi il gruppo si chiama in inglese? È perché effettivamente noi siamo chiamati costantemente dei rider, quindi ci hanno imposto di chiamarci così, tutti ci conoscono come rider, quindi cerchiamo di sfruttare un po' anche questa terminologia, anche se a noi non piace, però ci è stata imposta. E quindi in qualche modo ve ne fate una ragione, la sfruttate anche a vostro favore. Allora, da un po' di tempo in molte città, non tutte, in particolare Foodora c'è a Milano e a Torino, al momento puoi decidere di farti portare il cibo da casa, la differenza è che ti fai portare proprio il cibo di quel ristorante lì che ti piace tanto, sei tutto bello felice, ti arriva a casa, paghi, bla bla bla, ma cosa c'è dietro tra il ristorante e la soglia di casa? Ci siete voi, valorosi giovani fattorini, ecco, diciamo così. Però che succede? Perché c'è un'avvertenza in atto, anche un po' complicata. Avete chiesto un aumento e vi hanno risposto picche. Sì, noi più che un aumento abbiamo chiesto di essere pagati in modo da avere un minimo di certezza in più, perché comunque essere pagati solo ed esclusivamente tenendo conto delle consegne, tenendo conto anche della disomogeneità dei turni e quindi della differenza delle varie fasce orarie, perché comunque ci sono fasce orarie in cui ci sono molti più ordini e fasce orarie in cui comunque ordini non ce ne sono. Spiegaci un attimo. Esatto, perché... no, spieghiamo questa cosa, nel senso che voi siete in realtà pagati, mi sembra, a 5 euro all'ora, correggimi se sbaglio, e invece l'azienda vuole passare a pagarvi solo a consegna, 2,70 euro, poi adesso hanno proposto 3,60 euro, è così? Il cosiddetto cottimo. Sì. È così, l'azienda vorrebbe pagarci con un cottimo puro che appunto ci metterebbe in balia di questo estremo precariato e questa estrema flessibilità e quindi ci farebbe correre anche il rischio di fare turni da 2 ore nelle quali comunque non riusciamo a fare magari solamente una o poche o più di 2 consegne. E quindi guadagnare 5 euro praticamente 5 2 euro in un turno di 2 ore in cui si sta in giro con la propria bici, con il proprio smartphone, con la propria connessione. Perché spiegaci Giuseppe come funziona dal punto di vista dell'aggancio, cioè tu hai una app tramite la quale dialoghi con la tua azienda, è così? E dai disponibilità orarie. Noi abbiamo una piattaforma multimediale, quindi un sito sul quale chiediamo di lavorare per un determinato turno, una determinata stasera sono oraria. Libero e vorrei lavorare. Mettiamolo questa sera, così. Questa mattina, sì. Questo pranzo, perché Foodora lavora dalle 8 fino alle 11, quindi ci sono magari le fasce mattutine o pomeridiane in cui comunque sono meno ordini, e magari quelle serali o quelle del weekend in cui ci sono tanti ordini. Certo. E se l'azienda ti ingaggia per quelle due ore, tu stai lavorando, poi possono arrivare una, due, tre, quante consegne possono arrivare? Possono, dipende da quanti rider ci sono in giro. Se l'azienda mette un numero di rider idoneo, comunque che possa appunto riuscire a gestire le consegne che si prevedono, allora si lavora tutti e si fanno un numero di consegne che comunque è sufficiente per portare a casa una paga dignitosa. Se l'azienda non vuole rischiare o comunque sbaglia con i calcoli e magari mette un numero superiore di rider in pista rispetto a quelli che servono, come comunque è capitato soprattutto nell'ultimo periodo, e allora si rischia di stare in giro per due ore e magari di fare una sola consegna. Certo, ma scusami, ma tra una consegna e l'altra voi dove state? Nel senso che ognuno sta a casa sua oppure state tutti in un unico posto o state tra un ristorante e l'altro? Ma diciamo che adesso la politica dell'azienda è cambiata, perché inizialmente si partiva da delle postazioni fisse, senza raggiungere le quali appunto non si poteva iniziare il turno. Sì. Da quando è iniziata la mobilitazione, l'azienda, per evitare di farci raggiungere gli altri colleghi, appunto ha abolito queste postazioni fisse che ci avrebbero permesso appunto di agganciarci con tutti gli altri e magari farli. Cioè, hanno voluto evitare che vi trovaste tutti insieme per fare una, un'assemblea, una riunione. Perfetto. Adesso l'azienda fa partire il rider appunto da casa, quindi il primo ordine arriva sull'app, quindi il fattorino si trova a casa. Esce. Però è più comodo da un certo punto di vista poter essere a casa mentre aspetti l'SMS o no? Sì, è più comodo, però comunque diciamo un provvedimento che è stato preso in risposta appunto alla protesta. Momento, questo è anche è interessantissimo, perché è veramente la lotta sociale 2.0, anzi è la lotta social, direi, in questo momento. Ebbene sì, social sociale. No, perdonami, non è che ci sto scherzando, però perché volevo capire, perché in realtà è molto interessante il fatto anche di vedervi riuniti, in fondo è una delle prime volte che si vede una sorta di organizzazione che cerca di manifestare, a fare una protesta, perché voi non avete i sindacati, giusto? No, diciamo, noi abbiamo organizzato tutto con WhatsApp. Sì, tramite dei gruppi WhatsApp, tramite una lunga e dura raccolta di numeri, abbiamo aggiunto lentamente vari colleghi che adesso si sono organizzati meglio, ci siamo organizzati meglio, abbiamo portato avanti appunto queste rivendicazioni. Ma sta funzionando? Dopo il traffico, però abbiamo il traffico. E poi ti voglio chiedere anche se il gioco vale la candela, perché uno da casa ascoltando potrebbe dire: vabbè, insomma, un lavoretto, un piccolo lavoretto, una chiamata, qualche euro, a fine mese magari tiri su una cifra senza avere un lavoro fisso, un impegno fisso, e potrebbe anche valerne la candela. Però la domanda dobbiamo farla naturalmente: se la paga vale la pedalata, direi. La pedalata, che comunque andate in giro. A Milano ci sono i binari del tram, si rischia di cadere in bicicletta, pioggia, vento, inverno, la manutenzione della bicicletta, il telefono e poi il traffico, lo smog, insomma di problemini i problemi non mancano appunto. Andiamo sul traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Eccoci qua. Allora, intanto ricordiamo anche l'indizio per gli ascoltatori che vogliono giocare con noi per indovinare il personaggio della settimana. 800 24 00 24, ha alzato un polverone questo personaggio, quindi pensate negli ultimi 7 giorni a che cosa è successo e chiamateci. Siamo con Giuseppe Cannizzo, uno dei portavoci del movimento Deliverance Project, i collaboratori di Foodora che protestano dopo che l'azienda gli ha proposto di lavorare a Cottimo. Allora, abbiamo fatto un elenco delle controindicazioni di fare questo, che sicuramente è un lavoretto, magari per alcuni invece poi diventa anche un lavoro in più importante. importante perché si può lavorare anche tutto il giorno, che mi sono spaventato anch'io. Il traffico, i binari del tram, si può cadere, la manutenzione della bicicletta, lo smog, pioggia, vento. E sì, quanto si guadagna? Rischi di lavoro ce n'è in tanti lavori, altri lavori. Non è che sia però il lavoro peggiore del mondo. Qua la paga è molto bassa, perché sì, parliamo esatto, di 5 euro l'ora. Esatto. Giuseppe? Cioè, sì. Il problema è proprio questo, cioè ci sono tanti rischi e questi rischi non sono compensati appunto da una paga dignitosa che è quella che chiediamo noi. Ma quanto non puoi tirar su, diciamo, in un mese lavorando, facendo, che ne so, un part time, 3 ore al giorno, quanto puoi tirar su? Il problema è proprio questo, con una retribuzione oraria io potrei dirvi esattamente quanto penso di tirare su in un mese. Con il pagamento a cottimo e quindi a consegna, il problema è che si sta in balia del caso, perché noi non sappiamo quanti ordini riceveremo in un turno e soprattutto chi lavora nelle fasce magari pomeridiane o nella fascia mattutina, che sono le fasce orarie in cui ci sono meno ordini, rischia di stare in giro e di fare solo ed esclusivamente pubblicità all'azienda, perché stai in giro completamente e non scatolone. No, questo è chiarissimo. In più, se vogliamo aggiungere, nel momento che ci sono alcuni a cottimo e alcuni invece con il 5 euro all'ora, si crea un ulteriore problema, perché ovviamente quelli che sono pagati all'ora gli daranno 5 consegne da fare, perché tanto anche se ne fanno 28 di consegne, perfetto, pigliano la stessa cifra, e invece uno che è in giro magari per 4 ore ha dato la propria disponibilità, non lo chiamano manco per una consegna, e quindi quel giorno lì ha portato a casa 0 lire e ha lavorato 4 ore, e questo benissimo, è molto chiaro. L'avete colto nel però segno. Volevo farti una domanda. In questa agitazione e movimentazione state riuscendo, nel senso, hai la sensazione che Foodora ha avuto un calo di consegne? Perché con questo sistema ovviamente Foodora può prendere altri fattorini e neanche si accorge di voi. Foodora infatti sta assumendo ancora tantissimi fattorini e ne sta assumendo talmente tanti da non riuscire a fornirgli l'allestimento completo, quindi con tutto il brand, e quindi noi ci siamo accorti che quello che vuole fare Foodora appunto è sostituirci, tagliarci fuori, così come è avvenuto appunto con i provvedimenti disciplinari, diciamo, che sono stati presi. Anche perché può mandarvi via quando vuole, giusto? Foodora non può mandarci via, sì, ma può, diciamo, non farvi lavorare i turni, perfetto, certo, perché da noi ancora noi siamo dei semplici collaboratori. Chiediamo le disponibilità, ma queste disponibilità poi voi non ci vengono confermate. Quindi vorrei dire a un ascoltatore, scusami Giuseppe, che scrive: ma non li obbliga nessuno a fare questo lavoro. Certo. E invece, come no? Ragazzi, ma stiamo scherzando, qua parliamo di lavoro. Il lavoro è una necessità nella vita. Come fai se non lavori? Se non hai un altro lavoro, fai quello che ti capita. Quindi certo che c'è una necessità dietro, ma stiamo scherzando. È una necessità perché i conti a fine mese devono quadrare, certo, perché siamo studenti che hanno delle spese da affrontare, perché siamo persone che non riescono a tirare avanti con il primo lavoro e quindi ne devono cercare un secondo. Vorrei anche sfatare un altro mito: non parliamo di sharing economy, non c'è niente di condivisione, perché magari alcuni pensano, vedi, questa sharing economy poi ha anche questi problemi, eccetera, eccetera. Airbnb si fa una gran confusione, non c'entra nulla, non c'è nessuna condivisione tra voi, gli utenti, l'azienda, è un lavoro, semplicemente avviene tramite una app, e questo è l'aspetto tecnologico. Giuseppe, noi ti facciamo in bocca al lupo a te personalmente, ma a tutti i fattorini di Foodora, a tutta la generazione che è coinvolta, sì, da questo problema, perché non è solo Foodora, sono tutte le aziende, certo, che si occupano di delivery, che alla fine di tutto applicano più o meno le stesse condizioni. Ma scusami, ma se uno lavora per Foodora può lavorare anche per gli altri? No, non può lavorare per gli altri, che c'è obbligo di non concorrenza, anche nei nostri contratti. Quello mi interessa, perché uno è tutto libero, è pagato per essere completamente libero, però poi non è completamente libero e continua a essere pagato molto poco. Grazie Giuseppe, ciao, buona domenica. Dobbiamo chiudere, dobbiamo anche sentire un ascoltatore prima di andare sulla GR. Corrado da Milano, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno a tutte e due. Buongiorno. Io volevo provare a dare la risposta, sì, a chi ha sollevato un gran polverone. Chi è secondo settimana. Te? Non è proprio chi, ma che cosa? È la sonda Schiaffarelli. Assolutamente la sonda. L'accettiamo come risposta, preso, perché come ben sanno i nostri ascoltatori, non sempre il personaggio della settimana è un essere umano, quindi può essere tranquillamente atterrata su Marte, poi c'è stato il blackout, eccetera, eccetera. Ma non era questa la risposta esatta, è un altro il personaggio che ha alzato un polverone che andiamo cercando. 800 24 00 24, tra poco. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci qua, allora riprendiamo con il riepilogo anche delle notizie di questa settimana, tra poco sempre a caccia di buone pratiche e poi avremo con noi l'Accademia della Crusca per parlare italiano. A proposito, su Twitter una ascoltatrice dice: condivido con voi la vostra lotta contro l'abuso di anglicismi, non credo si dica inglesismi. Abbiamo detto inglesismo, lo chiederemo a Marazzini. Però mi sembra un giusto appunto, nel senso che giustamente da un lato... Se volete usare l'italiano... Da un lato bisogna, esatto, e dall'altro giustamente la lotta contro l'ignoranza, ovvero la mia in questo caso. Allora, abbiamo parlato, siamo partiti dalla lotta in questo caso, sì, possiamo usare questa parola antica, ma che esiste... La lotta social, ormai l'abbiamo battezzata. Dei collaboratori di Foodora, che portano il cibo nelle nostre case, ma... guadagnano forse troppo poco, però ce l'abbiamo un'altra notizia che riguarda il cibo, vai, sentiamola. Nel frattempo ti leggo un messaggino. Doveva partire lo stacchetto musicale. Che devo cantarlo io, ma non ci siamo capiti. Dovevi farlo tu, lo fa Paolo Corleone, vai. Meraviglioso piccolo Lucio, super trash, e qui stiamo usando un'altra parola inglese, però che dobbiamo fare? Allora, la notizia è questa, dopo Firenze, anche Padova ha messo in piedi un provvedimento per limitare il cibo che non sia di produzione locale, diciamo così. Sì. Ci deve essere il settacarlo già, cioè l'orticale già sta male. Ma un pochino, abbiamo a lungo studiato su questa cosa, se sia una buona pratica oppure no, e siamo giunti alla conclusione che... non si sa. No, insomma, nel senso che capisco la difesa del cibo locale, ma il fatto di mettere una percentuale per evitare che aprano dei kebabari mi sembra un po' esagerato. Così. Nel momento in cui siamo in un mondo globale, però qui solamente roba veneta. È difficile. È bello che ci siano negozi che abbiano solamente roba veneta e lo scrivano fuori, scrivono 100%. I kebabari hanno già pronta una risposta. Metteranno una foglia di insalata trevigiana, esatto, dentro il kebab. Grossa, una foglia grossa. Questo così è perfetto. Il kebab col 60% di radicchio. No, lo dico poi soprattutto quando ho letto la notizia che appunto riguarda Padova, dove si è deciso che per il 60% delle nuove attività, le nuove attività devono avere per il 60% prodotti veneti. Quando io l'ho letto ho capito via Padova. Pensavo via Padova a Milano, mi sono molto agitato per i kebabari. Ma tanto tu stai a Porta, non lo dico per... Ma andiamo in America per le notizie di questa settimana. Look at him, he's young, handsome, he's put forth a vision of progress that's not rooted in people's fears, but rather in their hopes. He knows that as nations, as individuals, we have the power to achieve great change. No, lo stiamo facendo sentire quasi tutto, perché fra un po' non lo sentiremo più Obama, tra l'altro. Perché tra due settimane, ciao. Non lo sentiremo più come presidente degli Stati Uniti, ma come è solito per i presidenti, di solito vanno in giro a fare conferenze poi per i successivi 125 anni. Ha ringraziato Matteo Renzi per il suo apporto che sta facendo per le riforme, eccetera, eccetera. Il famoso endorsement sulla riforma costituzionale, che però continua a dividere in Italia. Sentiamo Brunetta. Attenzione Renzi, perché gli endorsement di Obama portano sfiga, come sfiga hanno portato a Cameron sulla Brexit. Gli italiani non solo sono intelligenti e capiscono, ma si incazzano anche, perché vedere un presidente degli Stati Uniti che non sa una parola di italiano, che non ha letto certamente la schiforma di Renzi, come l'Italicum di Renzi, fare gli endorsement tra un bicchiere e l'altro al Premier, si fa per dire italiano, è una cosa indecente. Beh, Obama non lo sentiremo più tra un po', Brunetta invece continueremo a sentirlo, secondo me. Ma non lo so però, perché se posso dire, io capisco benissimo l'indignazione nei confronti di un endorsement da parte di un presidente degli Stati Uniti, quando si arriva a dire quello porta sfiga, hai proprio finito gli argomenti, sei a ravanare il fondo. Allora, c'è un'altra voce che voglio farvi sentire, è quella di Renzi, che presenta il logo per il G7 che si svolgerà a Taormina in Sicilia. Noi però abbiamo da dire una cosa su Taormina. Fate pure il G6, fate tutto quello che vi pare, però non fate chiudere. Aprite la libreria già che c'è il G7, tu dici. Perché non è possibile. Vuoi fare la vetrina in Sicilia di tutto quanto c'è di bello in Italia? E noi l'abbiamo detto più volte: l'unica libreria che c'è a Taormina sta per chiudere, o forse è già chiusa. Perché è stata sfrattata dal posto. Stavano cercando un altro posto. E se riusciamo magari ad aprirla sul serio e non aprirla solamente per i giorni del G7, è meglio. Ti ho chiuso il microfono. Non è un problema. Perché volevo far partire l'audio di Renzi, vai. Domani presentiamo il logo del G7 di Taormina. In occasione di un vertice internazionale, un autorevole leader ha fatto una di quelle battute sulla Sicilia. Beh, la Sicilia sì, è il luogo della mafia. Io mi sono sentito in dovere di rispondere. Che la Sicilia era un qualcosa che probabilmente quella personalità non riusciva a capire. È che non si sentiva neanche tanto bene questo Renzi qua. Comunque. Però era bella la motivazione. Lui dice: ho deciso di fare il G7 a Taormina perché una volta un leader europeo a Bruxelles gli ho sentito dire la Sicilia è mafia. E invece Renzi dice: io penso che la Sicilia sia arte, cultura, storia, buon cibo e lotta alla mafia. E magari con una libreria aperta è anche meglio. Patrizia da Roma, buongiorno, benvenuta. Ah, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Pronto? Prego, prego. Su cosa volevi intervenire, Patrizia? No, volevo rispondere alla domanda di oggi riguardo il personaggio. Chi è? Ci siamo emozionati. Io per i complimenti. Ho pensato a Luciana Littizzetto, perché è stata la prima, diciamo, ad alzare questo polverone su Fedora e mi ha fatto conoscere, diciamo, questa situazione. Ho pensato a lei. Giusto, è vero, ha usato anche un po' la sua rilevanza mediatica per parlare di questo argomento, lei che è di Torino e la protesta dei collaboratori nasce... Parte da lì. Proprio da lì, da Torino, però non era il personaggio, ma siamo contenti di aver... Che tu abbia chiamato per ricordare questa notizia. Grazie Patrizia, grazie. Buona domenica, ciao. Grazie a voi, ciao. Tiziano da Milano. Sì, pronto. Ciao, prego. Prego, benvenuto. Salve, vabbè, soliti complimenti di rito. Saltiamoli. Il personaggio, non so, riguardo a questo unico indizio, a me verrebbe da pensare una cosa fin troppo facile, comunque la dico, Bob Dylan, che ha vinto il premio Nobel, naturalmente, esatto, per la letteratura, la settimana scorsa ancora. Terribile. Ecco, e questa settimana la notizia è che non lo trovano. Esatto. Non lo trovano, in realtà se vogliamo c'è una notizia più precisa, perché sul suo sito è stato cancellato dal sito la dicitura vincitore del Nobel. E quindi pure. Era l'unico atto che ci si aspettava che fosse di riconoscimento del premio, invece avendolo tolto non si sa ancora se Bob Dylan lo accetterà o meno. Però non era il nostro non era il personaggio, anche perché ci aspettiamo che il polverone forse lo alzi in dicembre, quando andrà a fare il discorso, se ritira il Nobel davvero. Ma sarebbe pazza se non ci va. Lo sta scrivendo il discorso, ma io immagino sei lì e dici: adesso cosa scrivo? Ho vinto il Nobel, come lo spiego? Ci vuole un po' di tempo anche per Bob Dylan per prepararsi il discorso. Ciao Tiziano, grazie, buona domenica. Grazie anche a te. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ancora di nuovo in diretta, 9:18 minuti, cari ascoltatori, andiamo con Yuri che chiama da Avellino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Eccoti qua. Buongiorno. Tutto bene? Noi sì. Molto bene. E lì come si sta? Ad Avellino. Si sta bene. C'è il sole? C'è un po' di nebbia oggi. C'è un po' di nebbia. Sì, sì. È una cosa sì, che ci accomuna, perché anche noi qua a Milano... Lo so. Così. Però dopo da noi esce il sole. Giusto, invece da noi dopo piove. Questa è una cattiveria che hai detto, Yuri. Vabbè, te la passiamo. Esatto. Allora, vorrei rispondere sulla domanda... del personaggio della settimana, prego. Sì. Allora, non ho seguito gli indizi, comunque penso che sia Icardi, il giocatore dell'Inter, con il suo libro autobiografico. Sì, l'indizio era uno solo ed era alzato un polverone. E ti riferisci a che... Era quello. Beh, la notizia è perfetta, ovviamente. Ha pubblicato un libro che addirittura è stato ritirato. Ieri sono andato a cercarlo perché sono un collezionista compulsivo e quindi ho detto questo libro prima o poi varrà, ma è introvabile perché è andato esaurito la prima versione, nella quale c'erano, non ricordo se due o tre pagine, dove Icardi parlava del suo rapporto con la curva e diceva anche delle cose spiacevoli per uno che dovrebbe essere il capitano dell'Inter, quindi hanno tolto queste due pagine e il libro esce di nuovo. Ho visto tipo su Amazon c'è scritto disponibile fra 2-3 settimane. Il tempo appunto di fare. Esatto. Alzate un polverone gigantesco, fin troppo grande, ma non era il personaggio che abbiamo scelto. Forse non è un si può fare. Grazie, okay. Yuri, comunque anche per averci ricordato questa notizia. Oggi sono tante le risposte, con un primo indizio. E tutte molto giuste, molto in linea con l'indizio. Anche se per ora non sono proprio vicinissime, possiamo dire così. Beh, assolutamente, sì. Gennaro da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, Gennaro. Allora, io ho pensato che sia Grillo per quanto riguarda la riduzione dello stipendio ai parlamentari. Che però è una notizia che dove andiamo a situare nel tempo? Perché è sempre un polverone, i parlamentari che devono rinunciare allo stipendio, diciamo, del 50%. E comunque di polveroni di Grillo ne troviamo in ogni settimana senza grosse difficoltà, ma non era il personaggio che avevamo scelto, ma grazie di aver chiamato. Ma ha fatto ridere Gennaro perché ridacchiava, diceva ridurre gli stipendi parlamentari, il polverone c'è sempre. In effetti è vero, però non era lui. Nessuna risposta per ora si è avvicinata. Però diamolo un secondo indizio, aiutiamolo un po'. Lo diamo? E allora diciamo è milanese. 800-24-0024. Ancora una volta ho rimasto solo, m'hai lasciato pure tu. Non so perché nessuna ragazza poi rimane con me. Stavolta parlerò da solo, mi dirò ragazza così non va, lasciali in pace per carità, quella ragazza non fa per te e non scommettere dai, ma te sicuro che perderai ancora una volta. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Fatti non foste a viver come bruti. Means our mission is not follow the brutality, but follow values and knowledge. This is the choice for us today. This is the mission for the new generation of politicians. This is the ambition. Vabbè, sembra Alberto Sordi quando faceva... Io Alberto Sordi perché andiamo indietro, ma non so se fa più ridere quando parla in inglese o quando parla in latino. O forse quando sceglie le citazioni, perché è interessante la citazione che sceglie Renzi dicendo assolutamente virtute e conoscenza, che in realtà è il girone in cui i capi militari e i politici vengono puniti perché usarono più l'ingegno, l'astuzia, anche la frode piuttosto che altri mezzi per raggiungere i loro fini. E diciamo, così vicini al referendum, qualcuno potrebbe dire stai parlando bravissimo. Io ho detto, quando parla in latino mi correggo, perché Dante naturalmente non è latino, perché c'è con noi Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, e non vorrei che mi bacchettasse subito così. Ma ci bacchetta di sicuro, è il nostro gusto. Buongiorno. Buongiorno. Allora ma quindi non si può dire inglesismi? Sfattiamo subito questo problema, che pare che io abbia detto inglesismi invece di anglicismi. No, è perché non si può dire. Esistono tre parole: inglesismi, anglicismi e anglismi. Si può scegliere liberamente, insomma. Ma questo è lei. Sono molto contento che mi scagiona da questo problema. Molto sì, bene. Uno deriva da inglese, sì, e uno deriva da anglico, certo, anglicus, latinismo. Quindi anche perché uno comprende anche la lingua americana, forse invece l'altra è più la lingua inglese strettamente. No, ma quello non importa, perché naturalmente l'inglese, anche l'inglese d'America è inglese. Ah, è inglese d'America, ma è sempre inglese. Beh, anche l'inglese d'Australia è inglese. Quando la sento, se non faccio almeno un errore al minuto, non sono contento. No, no, nessun errore, va benissimo. Allora, voi siete usciti con l'italiano e la creatività, marchi e costumi, moda e design, certo, in occasione degli Stati Generali della Lingua Italiana, nella quale, durante i quali, insomma, avete un po', come dice, cercato di tirarci sul morale, a dire guardate che è giusto studiare l'inglese, fare esperienza all'estero, imparare le lingue, tutto quello che volete, però non dimentichiamoci che l'italiano è pur sempre la quarta lingua più studiata? Sì, è la quarta lingua. Intanto possiamo dire, visto che ha citato questo libro, che tutti gli ascoltatori che desiderano scaricare un esemplare di libro elettronico per l'ebook hanno tempo gratis, senza spesa, lo possono fare credo entro oggi termina, perché la distribuzione di questo libro avviene gratuitamente durante la settimana della lingua italiana, che chiude. Infatti, avete sentito però il presidente della Crusca, come si dice, libro elettronico. No, meglio, dice un esemplare di libro elettronico, e io mi sciolgo. È perfetto. Sì, ho tradotto ebook, va benissimo anche chiamarlo ebook. No, ma è correttissimo. Spiegato. Perché ebook è più veloce, naturalmente, però il libro elettronico è così. Certo. Sentite come suona, no? Libro elettronico, poi ci si mette mezzo secondo. Carica comunque dalla piattaforma di Amazon o da Google Books gratuitamente, ancora per oggi. Poi se uno lo vuole addirittura stampato, cioè non più elettronico ma di carta, c'è già ora, lo si scarica anche quello da Amazon, lo si ordina, però costa di più, quello costa 20 euro. Quindi certo, tutto sommato, chi vuole fare economia si accontenta di quello elettronico. Si può downloadare, free, eccetera, eccetera. No, fino a oggi, sì, dopodiché... Certo. E dopo si pagherà non tanto, non so quanto sia, 5-6 quindi approfittatene fino ad oggi. Fino ad oggi. Senta, presidente, perché cioè qual è il veicolo attraverso il quale l'italiano è una lingua, per alcuni può essere una sorpresa, per altri una conferma, così studiata, così anche poi parlata all'estero? Perché l'inglese è la lingua degli affari e, che ne so, della musica internazionale, lo spagnolo è la lingua di tutto il Sud America, un continente enorme. L'italiano si parla solo in questo piccolo paese che è l'Italia, però poi e la Svizzera, un pezzetto di Svizzera. Cioè, cos'è che ci rende così importanti nel mondo? Intanto poi non siamo così piccoli, sono 60 milioni di italiani, 300 mila di svizzeri, tutti gli italiani che sono emigrati all'estero e che sentono un qualche richiamo col loro passato. Quindi, insomma, certo non sono numeri paragonabili all'inglese o allo spagnolo. O al cinese. Sono numeri, o al cinese, certamente, ma comunque sono numeri paragonabili a quelli di lingue di cultura come il tedesco, il francese. Quindi, certo, insomma, esiste, resistiamo. Poi naturalmente lei diceva l'inglese è la lingua della musica. Sì, anche l'italiano lo è, però, perché tutta la tradizione della lirica, del teatro, certo, è appunto. Certo. Quindi l'italiano è quello che si potrebbe definire in termini economico-commerciali una lingua di nicchia. È una lingua di chi ama l'arte. Per esempio, proprio durante gli stati generali della lingua italiana, il nuovo direttore degli Uffizi, che è tedesco, come sapete. Anche Schmidt, come no, certo, esatto, cioè, il nostro amico. Ha raccontato un bellissimo aneddoto, ha detto che è stato in Cina, dove si sono riuniti tutti i direttori di musei del mondo, e le lingue franche con cui conversavano tra loro erano ovviamente l'inglese per primo, ma poi l'italiano. Ma che meraviglia, bellissimo. Sì, perché dice che quasi tutti questi direttori di musei, i grandi musei del mondo, avevano trascorso una parte della loro vita in Italia e quindi un po' di italiano lo conoscevano. Per forza. Senta, però, sì. No, prego. Volevo portare da un'altra parte a parlare di social network. Oggi si scrive molto grazie a Facebook, diciamo, a Twitter un po' meno forse, ma tutti hanno Facebook, tutti la mattina si svegliano e mettono su una frase, una loro poesia, una loro creazione, uno status, volevi uno dire status, però non volevo dirlo in inglese, però status, status non è, esatto, va benissimo, si può dire. Quindi tutti scrivono tanto, però poi ci si lamenta di come si scrive, perché si scrive col per, si scrive male, si usano per esempio su Twitter Twitter solo 140 caratteri, si usano tanti inglesismi, per esempio. Lei è soddisfatto? Cioè, per lei, che è il primo, quello che porta avanti proprio la lingua italiana, è contento di questa situazione o vede più gli aspetti negativi? Ma no, non ci sono effetti negativi, perché un canale non provoca danni alla lingua, come appunto io dico sempre, al tempo della lingua telegrafica, si dice morto nonno, punto, vieni funerale, non giusto. Vuol dire che poi la gente scriva sempre. Però anche quelli poi che iniziano a Milano poi si parla così, effettivamente, morto nonno, vieni funerale. Ma perché si deve fare in fretta. Certo. Però ci sono quelli che iniziano le frasi con e niente, no? Per esempio, ci sono tutte queste espressioni così che non hanno un grosso significato linguistico. Che sì, però in genere no, quelle non le scrivono, però quella a voce. Ma sui social si scrivono e rimangono poi, Sui social si scrivono. Vabbè, però lei dice l'importante è che si scriva l'italiano. È una scrittura parlata, ma insomma, naturalmente non è quella che fa danni, salvo se a volte c'è qualcuno che riporta questa scrittura in contesti diversi, anche, ne so, in un tema di scuola, e allora qualcuno dovrà avvisarlo che non si può scrivere sempre così, ma certo. È tutto lavoro per gli insegnanti. Non vedo tragedie in questo senso, anzi. Tra parentesi, tutto questo utilizzo di scritture elettroniche ha potenziato il rapporto tra l'utente italiano medio e la scrittura. Cioè si scrive, magari non tanto certo. bene, però si scrive molto. Si scrive tanto. Pochi anni fa si diceva, la scrittura morirà perché parleremo sempre al telefono. E come al solito i profeti sbagliano tutto, perché succede qualcosa che cambia il quadro. Quindi in realtà adesso si scrive moltissimo. Siamo sempre appiccicati a un computer, certo. a mandare messaggi. Scriviamo poi, molto di più di un tempo. Certo, poi se la sintesi vocale che ormai usiamo, io per esempio i messaggi nel telefono ormai li detto con la sintesi vocale, con effetti divertenti, perché a volte è difficile infilare la punteggiatura, perché lei detta caro amico, virgola a capo, e il sistema scrive a capo. Scrive virgola a capo e poi deve perdere. Beh, pagherei qualunque cifra per ricevere gli sms del presidente della Crusca, veramente. Le volevo chiedere. Gli rimando gratis. Le volevo chiedere un'ultima cosa. In realtà, prima giustamente ci dava un sacco di motivazioni molto comprensibili del motivo per cui molti studiano l'italiano. Però io ammetto che tutte le volte che leggo l'italiano, la quarta lingua più studiata al mondo, mi stupisco moltissimo. Perché sarà vero, perché i dati sono questi. Però poi in giro non è che si incontrano molte persone che sanno l'italiano. Mi chiedo, non è più un italiano accademico? Nel senso che è difficile andare ad Amsterdam e parlare italiano con qualcuno, a meno che non sia un emigrato italiano, ovviamente. Beh, magari proprio ad Amsterdam, però è appunto una lingua d'elite, in effetti, perché in realtà molte persone colte d'Europa che hanno appunto interessi culturali, come si diceva prima, nel campo dell'arte, della musica, l'italiano lo parlano. E sono, certo, sono numeri relativi. In fondo questo è la quarta lingua studiata, e gli studenti che in questo momento studiano italiano nel mondo, il Ministero degli Esteri li ha calcolati nel numero di 2 milioni. E certo è un numero relativamente piccolo se paragonato alle lingue che ci precedono. Però bisogna accontentarci, insomma. No, ma io mi accontento, anzi, mi sembra altissima classifica. Allora, siccome è bastato dire, scusi Presidente, è bastato dire gratis, a proposito del libro elettronico che si può scaricare su internet, che sono impazziti gli ascoltatori, tutti vogliono scaricarlo e quindi mi chiedono di ripetere il nome del libro, lo ripeto, giusto. È L'italiano e la creatività, marchi e costumi, moda e design, quindi questo è il titolo. Il libro è stato curato da due accademici che si chiamano Paolo D'Achille e Giuseppe Patota. Il libro è Crusca GoWare, che è una ditta a cui ci appoggiamo per fabbricare i libri elettronici. Che purtroppo c'ha questo nome, questo inglesaccio. Certo. Non lo possiamo cambiare, lo so anch'io che suscita una certa ironia, ma non posso costringerli. Ma ci mancherebbe. Sono di Firenze, tra l'altro. Senta, Presidente. Sono di Firenze e stanno a un chilometro dall'Accademia della Crusca. Nonostante quello che lei ha detto, e nonostante siamo tutti contenti della lingua italiana, però poi il ministro Martina delle politiche agricole, quando ha dovuto a decidere il nome del marchio che rappresenta il prodotto alimentare made in Italy all'estero, non ha fatto come i francesi che ha scelto Bon Appetit, ma ha scritto The Extraordinary Italian Taste. Diamo un suggerimento, ci vuol pensare? Ma gliel'abbiamo già dato l'anno scorso. La Crusca fa una volta l'anno una cosa che si chiama la Piazza delle Lingue, che è una specie di grande convegno rivolto a largo pubblico con anche attori, insomma momenti di divertimento. E l'anno scorso l'abbiamo fatta a Milano. Cosa gli avete proposto? No, Anna Maria Testa, che è la pubblicitaria ben nota, ha preso in giro questo marchio proiettando tutti i marchi dell'Italian Sounding e facendo vedere che quello inventato dal Ministero sembrava falso. Era più perfettamente imitato, che imitava in maniera più perfetta i marchi falsi. Però pensiamoci, mettiamo insieme questa accademia di grandi cervelli. L'ho già suggerito l'anno scorso al Ministero e tra l'altro l'ho anche detto a quelli del Ministero degli Esteri, che spero che... Ma non ci lasci così la suspense, cosa avete proposto? No, abbiamo proposto, semplicemente abbiamo suggerito di non metterci queste banali bandierine tricolori, di inventare qualcosa di meglio e di mettere appunto quello che vogliono, ma il nome non ce lo vuol dire. Ma avete fatto Noi non abbiamo suggerito, potevano metterci anche gusto italiano, ma insomma potevano metterci in italiano, qualunque cosa. Cioè è inutile andare a imitare i marchi falsi, questo è evidente. Sì. No, ma io sa perché glielo dicevo, perché nessuno ci ha chiesto come farlo, abbiamo fatto una critica. Ah, giusto, lei dice nessuno. Eravamo però in fase di... Mettiamo così, se ve lo chiedesse, se il ministro Martina ve lo chiedesse, magari nella prossima intervista in cui lo sentiamo gliela buttiamo lì. Voi cominciate a pensare così piano piano, perché magari viene fuori una bella idea. È una consulenza che saremmo onorati di avere e naturalmente lo faremo gratis, questo è chiaro, no? Va bene, grazie Marazzini. Grazie mille, grazie a voi, arrivederci. Allora, ascoltatori, chiamateci per dire la vostra, se vi ha convinto anche il presidente della Crusca, oppure no, 800 24 00 24, e poi per indovinare il personaggio della settimana abbiamo Daniela Davarese. Vai, facciamola prima di andare in pubblicità. Daniela. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho detto Belen. Sì. Perché ha sollevato un polverone, perché si è presentata a Milano con il suo nuovo fidanzato. Ha fatto foto con un po' disabillé. Vabbè, questo diciamo di per sé potrebbe anche non essere una notizia per Belen. Però chi è il suo nuovo fidanzato, già che ci siamo? Si sanno le generalità? Iannone. Iannone? Sì. Il pilota sì, Iannone. Esatto. Come può vedere, non ne siamo molto esperti, quindi evidentemente non era questo il personaggio che avevamo scelto, ma la ringraziamo per aver ricordato la notizia del nuovo fidanzamento di Belen. Grazie, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. If you vote for Hillary Clinton, I will give you a blowjob. Okay? And I am good. I take my time and I do swallow. Allora, scusate l'inglese, ma dovevamo farvelo sentire in lingua originale. Non so se avete riconosciuto la voce di Madonna con questo strano appello a favore di Hillary Clinton, che ha fatto un po' il giro del mondo. Bellissimo, ha fatto assolutamente il giro. Se votate per la Clinton, tecnicamente vi faccio un pompino. E anche detto, io sono molto brava. Vi guardo dentro negli occhi e poi ingoio. Credo che abbia detto così, tecnicamente. Qualcosa del genere, sì, vero? È stata più interessante la reazione di Adinolfi, che ieri ha rilasciato e ha fatto anche tutto un paginone sulla croce, dicendo che in realtà alle donne non piace assolutamente il sesso orale. Non so se parla per esperienza personale. Io parlo per esperienza personale, direi che mi sembra una vaccata sul fatto che non sia piacevole. Ma il problema è che l'avesse detto forse a favore di Donald Trump o qualche altra. Adinolfi a favore di Donald Trump. Parlo di Madonna, può darsi anche quello. Comunque ci fosse stato in mezzo Trump, si sarebbe creato un gran casino. Invece tutto sommato questa cosa è passata così, liscia. Chissà se Madonna si pentirà mai di questo video che ha fatto, perché a volte può capitare, magari non a lei, di pentirsi che fai un video, lo metti su internet, soprattutto quando vedrà il numero dei lavoro dei votanti della Clinton, in qualunque modo. Da noi, però, interviene il Corecom in questi casi. Vai! Questa è la marcia degli incazzati, questa è la marcia degli arrabbiati, sono incazzato, andate via, sono incazzato perché non lo so, beccazzi via! E vi abbiamo fatto sentire anche Benigni, vi abbiamo fatto sentire anche Benigni, che non c'entra nulla con la notizia, però va bene lo stesso. Io voglio salutare la presidentessa del Corecom Lombardia, Federica Zanella, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Corecom, che è il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia, ha messo a punto un sportello per la web reputation, detto in italiano, Carlo, potremmo dire per... La reputazione digitale. Eccola, perfetto. La presidentessa. Vi aiuto. Giusto, è che abbiamo appena parlato col presidente della Crusca e quindi siamo un po' impauriti nel tradurre delle parole inglesi in italiano. Vi arrivano un sacco... Io sono laureata in lettere classiche, perfetto, cerco di essere all'altezza. Perfetto, della lo sarà senz'altro. Allora ci salva che io ho la terza media. Vi arrivano un sacco di segnalazioni da parte di anche di papà, in particolare di ragazze, di bambine, spesso anche giovani, che cosa fanno? Mettono delle foto e anche dei filmati dove? Sul web, nelle chat, sì, ovunque. Allora, va detto che questa generazione, diciamo, ha una grande abilità nell'utilizzo degli smartphone e molta poca consapevolezza delle conseguenze di quello che possono, che inviano, che digitano e quant'altro, e spesso, insomma, con grande leggerezza lo fanno anche con una tipologia che è detta sexting, quindi delle foto personali compromettenti, dei filmati girati anche magari per scherzo, che fanno girare o inviano a degli amici. Come si è visto, perché quello che lei ha detto è importante, sì? Magari possono nascere per scherzo in un contesto diverso, se poi però cambia il contesto cambia tutto, perché poi quelle cose, lo sappiamo, cominciano a girare e possono avere effetti devastanti. Spesso il rebound è drammatico ed è quello che poi induce qualche volta a dati estremi. Proprio per questo, visto che voi conducete una trasmissione che si chiama Si può fare, noi abbiamo pensato che si dovesse fare qualcosa per stare vicino ai cittadini, perché non se ne può parlare solo quando, certo, c'è il fatto di cronaca e si accendono i riflettori. E per cui dal luglio del 2014 abbiamo istituito questo sportello, che è un servizio unico a livello europeo, proprio per dare delle soluzioni, delle risposte, perché noi facciamo anche attività di prevenzione, ma poi quando il fatto è compiuto e la ragazzina vede una sua foto o un suo video che hanno un rebound straordinario e quant'altro, spesso non trova una via diversa che quella magari di buttarsi purtroppo dalla finestra, come è successo. Ecco, ma noi sappiamo che in questi casi spesso magari sono i genitori che si rivolgono anche all'autorità, sì, giudiziaria. Ci vuole molto tempo, ne abbiamo, esatto, parlato anche col garante per la privacy, ed è un grosso problema intervenire, perché poi l'immagine diventa virale e ti saluto. Esatto. E invece voi riuscite, a volte anche siete riusciti tempestivamente a togliere queste immagini. Quindi è possibile? Sì, assolutamente. Allora, vi spiego. Noi, peraltro, agiamo spesso in sinergia con la polizia postale, perché se la polizia postale deve aspettare l'autorizzazione del magistrato, rimuovere autoritativamente dal web qualche fattispecie lesiva, il tempo trascorre. Voi mi insegnate che il tempo in questi casi è fondamentale. La differenza, certo. Esatto. Noi di fatto ci muoviamo in termini di moral suasion e quindi ovviamente utilizziamo tutti gli strumenti che i grandi colossi del web, soprattutto dalla sentenza, adesso non vorrei entrare troppo nei tecnicismi, ma cosiddetta Google Spain della Corte Europea, hanno dovuto mettere a disposizione degli utenti per la tutela della web reputation. E tramite, insomma, una società specializzata che ha vinto un bando regolarmente e quant'altro, sono le stesse, sì, società che utilizzano grandi aziende, eccetera, per operare il cleaning della loro reputazione digitale, riescono ad agire molto molto tempestivamente. È ovvio. Ma quindi che... mi spieghi, lei, cioè, voi chiamate che ne so, Google per quanto riguarda, o Facebook per quanto riguarda WhatsApp? Ci sono diverse procedure. Allora, per l'utente, spieghiamo cosa succede per l'utente, perché è molto più semplice. Sì. L'utente si rivolge a noi, siamo reperibili sia sul sito, che è www.corecomlombardia.it, sia a famoso Pirellone in via Filtri 22, spesso vengono proprio ai nostri sportelli, anche perché abbiamo sportelli anche per la conciliazione, ma questo non è il momento di parlarne. e ci espongono la loro problematica. Dei funzionari decidono se la fattispecie è procedibile e dopodiché inoltrano la richiesta a una società che se ne occupa, ovviamente. Questa società che lavora per voi e che e ha delle sue... Sì. E appunto spesso il tutto viene effettuato, cioè il cleaning, la recuperazione digitale, ovviamente dipende dalla quantità di link che sono stati fatti, quindi la tempistica con cui il padre o la madre vengono a denunciare la cosa è fondamentale. Perché ma un mi conto scusi, è rimuovere 1000 indicizzazioni, un conto è rimuoverne 10, assolutamente, o rimuoverne 100, voi mi certo insegnate, chiaramente. Ma mi scusi, volevo capire giustamente, le persone vengono allo sportello oppure sul sito e dicono ho la sensazione che mia figlia abbia postato, oppure so che mia figlia. Sì, allora c'è un modulo molto chiaro, ci sono diverse fattispecie, quindi si può intervenire se sono stati diffusi nel web video, immagini, foto senza che le interessi la figlia era questa al corrente, scritti personali, commenti lesivi sul web, articoli. Ma la figlia viene interpellata, quello che mi chiedo, o è semplicemente il genitore? Noi possiamo ovviamente ricevere la segnalazione solamente da chi ha la patria potestà, perché siamo un'istituzione pubblica, quindi non possiamo. Adesso so che nella nuova legge sul cyberbullismo che è passata al Senato e deve ritornare alla Camera perché è stata modificata, c'è la possibilità anche per il giovane di accedere alla segnalazione direttamente, il che ovviamente aiuterebbe molto di più, perché è ovvio ed evidente che soprattutto sul sexting, prima che la ragazzina vada a denunciarsi ai genitori su un video che ha girato, una foto che ha mandato al ragazzino che poi per vendetta l'ha ripubblicata su Facebook avendo un rebound straordinario e quant'altro, è molto più complicato. Però mi tolga una curiosità, perché lei ha usato l'espressione moral suasion, cioè voi non siete un'autorità giudiziaria che immediatamente ha una sentenza esecutiva per cui Google o Facebook devono adeguarsi, però voi praticamente tramite questa società che avete, se ho ben capito, chiedete ai responsabili di questi siti internet di come dire, mettersi una mano sulla coscienza e quindi di intervenire. Allora, un po' questo? È ovvio ed evidente che la nostra forza è quella di essere comunque un'istituzione, di avere alle spalle la polizia postale, abbiamo dei protocolli con la prefettura, quindi ovviamente... C'è un'alternativa un po' più rapida all'autorità giudiziaria, che può intervenire velocemente. Di fatto c'è una modulistica per la rimozione dei risultati dell'indicizzazione messa a disposizione da Google e Bing, per esempio. Ci sono altri siti che hanno aumentato l'accessibilità dei pulsanti per le segnalazioni presenti su piattaforme social, eccetera. Quindi ognuno ha dovuto adeguarsi di questi colossi del web proprio in relazione alla famosa sentenza che richiama il diritto all'oblio, per dire. Certo. Ovviamente noi, per noi questa è fondamentale. Io vi dico che di fatto su tutta la casistica che abbiamo affrontato circa l'80% dei casi sono stati risolti completamente. Ecco, infatti era l'ultima domanda che volevo fare, questa cifra secca, 80% è un risultato molto importante, quindi è una strada che si può seguire. Noi abbiamo voluto raccontarvela, cari ascoltatori, vale per la Lombardia, quindi ai genitori che possono avere dei problemi di questo tipo in Lombardia sapete dove andare, al Corecom. Nelle altre regioni credo che ci si possa lavorare, in qualche caso ci si sta anche lavorando. Noi intanto la ringraziamo, Federica Zanella, grazie. Per, no, volevo solo aggiungere che verrà presa come ovviamente best practice, diciamo, da qualche altro Corecom che si sta lavorando, quindi speriamo che sia diffusa il più in possibile tutta Italia. Ed è aperta anche ai non minori, ovviamente, anzi abbiamo molti casi come è quello della ragazza che si è recentemente tolta la vita di 31 anni per quel video. Grazie, assolutamente bisogna pensare non solo ai minori ma anche agli altri, perché lo stesso problema possono avercelo tutto, anche se per i minori può essere spesso molto più grave. Ci fermiamo, siamo un po' in ritardo, andiamo sul traffico, torniamo tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Potrai correre il sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo Giovanni che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao. Buongiorno. Maurizio, ciao Carlo. Ciao, buongiorno. Allora, Carlo si ricorda di me perché sono il tassista che l'ho accompagnato stamattina. Tempo fa. Ah no. Una mattina, sì. Certo. Certo. Delle chiacchierate fatte. Che ho anche allora ringraziato in onda. Prego. Esatto, ti ringrazio ancora e vediamo se ci prendo. il sindaco Sala per l'onorificenza al Dalai Lama. Spieghiamo bene la notizia. Allora, il sindaco ha proposto di dare la cittadinanza onoraria, credo, al Dalai Lama e la comunità cinese è insorta. Si è intimorito, Giovanni, quando ho detto di spiegare bene la notizia. No, sai cos'è? Che sono 9:51 minuti. Mi dai la risposta esatta, però... Esatta ma non esattissima, ma soprattutto un dettaglio, mi metti il nome di Sala e soprattutto anticipando la questione del taxi, sembra assolutamente una truffa questo. È ovvio che io ho voluto favorire il tassista che mi ha accompagnato, perché avevamo il dubbio che tu dicessi Sala, il vincitore è il Dalai Lama, il personaggio è il Dalai Lama per il vincitore, il personaggio, sì, soprattutto insieme, un casino bestiale. Comunque Giovanni, il personaggio che avevamo scelto era il Dalai Lama, un uomo pacifico che però scatena tutte le volte le ire dei cinesi, perché c'è un contenzioso che riguarda il Tibet e noi abbiamo scelto lui come personaggio. Quindi tu, che hai indovinato, ti porti a casa i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale di Milano, quindi complimenti, sei anche di Milano, quindi fai in fretta. Buona domenica, grazie. Buona domenica, per essere stato grazie con mille. Noi. Abbiamo ancora il tempo per raccontare un'ultima storia velocissima, vai. Storia di pappagallo, storia d'amore e di passione presentato dalla 2100 Bocchi. Franco e Ciccio se ne andarono in Perù per trovare un pappagallo tutto blu, un uccello peruviano che parlasse siciliano da portare a Caterina Cefalù. Allora, è con noi Marco Leone Barone, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Buongiorno. Allora, abbiamo pochissimo tempo, però dobbiamo raccontarla questa storia. Lui è uno dei due artisti di Laboratorio Saccardi e stiamo parlando della costruzione di un monumento per Franco e Ciccio. Franco e Ciccio che ci hanno fatto tanto ridere. Quanto tempo è passato da quando non sono più con noi, Marco? Un po', già quasi 20 anni, insomma, 10 anni sicuro, non saprei di preciso. Esatto, però ecco, i più giovani forse non si ricordano di Franco e Ciccio. Beh sì, i film, i più giovani no, i secondo giovani me. Non saprei, i ventenni non lo sanno, forse i trentenni, però chi ha qualche anno di più sì, hanno fatto una comicità, come possiamo definirla? Sicuro demenziale. È molto innocente, una comicità di allegria semplice. In realtà loro erano dei teatranti, poi il periodo storico era quello che era in Italia, quindi si sono prestati, diciamo, a un cinema detto di serie B, che poi oggi in realtà, confrontandolo col cinema di oggi, magari è un cinema di serie A più uno rispetto ai film che ci sono in giro. Voi volete realizzare un monumento per Franco e Ciccio e state chiedendo un po' anche il sostegno di tutti, perché ci vogliono un po' di soldini e la cosa non è facile. Spiegaci un po' questo appello, Marco. Allora, innanzitutto si può fare questo progetto. Noi Speriamo. Stiamo facendo un crowdfunding tramite una piattaforma siciliana che vogliamo citare subito, che si chiama Laboriosa. Allora, il nostro obiettivo è, in questo momento, il primo aspetto, diciamo, è raggiungere i 5.000 euro per poter realizzare questo monumento, che poi noi doneremo al quartiere del Capo, che è il quartiere che ha dato i natali a Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. Quindi è una donazione che noi da artisti vogliamo fare alla città, che un pochino manca di queste diciamo azioni, anche la città, diciamo anche la città. È Palermo, chiaramente, sì, ecco, la capitale dello stato della Sicilia. Quindi il sito è Laboriosa, lo ridico perché se qualcuno, siamo in chiusura purtroppo Marco, qualcuno però si fosse convinto, potete andare su laboriosa.it si può donare dai 5 euro ai 1000 euro, poi visto che state parlando di lingua italiana, io vorrei anche dire che se ci fosse magari qualche sponsor, che è una parola latina e non è l'inglese, uno sponsor magari privato che vuole intervenire per questo e donare qualcosa. Benvenuto lo sponsor. Certo. Dobbiamo chiudere, grazie Marco. Okay, grazie a voi ragazzi, grazie per il tempo. Donate certo. Franco e Ciccio. Volevo solamente dire una cosa a Maurizio Ceccaione, che ci scrive su Twitter che nessun sito è possibile scaricare gratis il libro dell'Accademia della Crusca, e quindi ci dice truffa. Sono sulla pagina di Amazon dove dice che il libro è a 0 lire. Poi se funziona non lo so. A sabato prossimo, buona domenica.